La storia e la memoria di Dino Pesole. A distanza ormai di 36 anni dal rapimento e dall'uccisione di Aldo Moro, nonostante le pronunce e le condanne della magistratura, alcuni dei passaggi che segnarono uno dei momenti più tragici della storia repubblicana restano ancora avvolti nel buio. Questa sera vi proponiamo di tornare insieme su una delle pagine più tragiche e oscure della nostra storia, in compagnia di un attore di teatro molto noto agli ascoltatori di Radio 24. E in studio con noi Ulderico Pesce. Buonasera Ulderico. Buonasera Dino. E bentornato, dico bentornato perché proprio un anno fa Ulderico Pesce è stato nostro ospite per la sua pièce su Moro, che ora viene riproposta al Teatro India di Roma fino a domani 30 novembre e poi dal 2 dicembre al Teatro Lo Spazio, sempre a Roma, con interventi in video del giudice Ferdinando Imposimato. Il mio sangue ricadrà su di voi, sul partito, sul paese. Chiedo che ai miei funerali non partecipino né autorità dello Stato né uomini di partito, scrive Aldo Moro in una delle sue ultime lettere. Ulderico, rispetto a un anno fa, sono emersi nuovi particolari? Beh, rispetto al testo che portiamo in scena al Teatro India fino al 30 novembre, poi dal 2 dicembre fino al 14 al Teatro Spazio, nel testo la cosa che è emersa è sempre la stessa, cioè raccontiamo sempre la stessa cosa, solo che la magistratura ha fatto dei passi avanti, perché se l'anno scorso a Radio 24 abbiamo letto di Piacenzenik, ho recitato un pezzo dove questo braccio destro di Kissinger arriva il giorno dopo l'attentato, arriva qui in Italia per liberare Moro, e Piacenzenik scrive: io mi girai verso Cossiga, dovevamo decidere se liberare Moro o farlo morire con i suoi segreti. Scrive Piacenzenik: noi sapevamo dalle lettere che Moro scriveva che Moro sapeva di segreti importanti e di uomini politici che conoscevano e detenevano questi segreti, tipo Cossiga e Andreotti. E allora con Cossiga decidemmo di lasciare che Moro morisse con i suoi segreti. Dunque, questo nello spettacolo da 3 anni diciamo questo, che Piacenzenik ha scritto in effetti che hanno aiutato a morire Moro, lui e Cossiga, ma la magistratura italiana rispetto a queste cose scritte da Piacenzenik era andata sempre oltre, non ci aveva fatto caso. Finalmente un mese fa Piacenzenik è indagato, da un mese deve venire qui in procura a Roma per rispondere a un reato molto grave, che è in qualche modo aiutato e sospettato per aver aiutato ad ammazzare Aldo Moro. È un'accusa molto grave. Infatti lo spettacolo procede tra memorie, rivelazioni e mette in luce appunto molte stranezze. In sostanza, Ulderico, dopo 36 anni il paese attende ancora la verità, la piena verità su questo episodio tragico della nostra storia. Sì, insomma, la grande fortuna è che il testo l'ha scritto il giudice Imposimato, che è il giudice che ha fatto i primi 3 processi Moro. E il giudice le cose le ha scoperte già entro il 1983, poi gli ammazzarono il fratello Franco, i delinquenti della banda della Magliana, e gli fu tolto il processo proprio mentre consegnava le prime sentenze e fu portato nel nord dell'Italia, nel nord Europa, a nasconderlo per motivi di sicurezza con tutta la famiglia. Bene, le cose che ripete il giudice sono sempre le stesse. E oggi, dopo 36 anni, come dicevi tu Dino, non sappiamo la verità perché nessuno ci fa leggere le carte. Esistono carte, esistono documenti che sono secretati, sono in qualche stanza. Sappiamo solo che c'è un corridoio di 70 metri che è pieno zeppo di documenti relativi alle Brigate Rosse, ai terroristi, alle grandi stragi italiane e al caso Moro. Noi dobbiamo mettere mano su quei 70 metri, dobbiamo entrare in quei corridoi. È inutile che i ragazzi studiano Shakespeare, Platone, Molière, Aristotele, Galileo Galilei, la tecnica, le macchine, se poi non hanno le chiavi per aprire questo nostro paese, questa nostra repubblica, aprirla, trovare la memoria e costruire un'altra Italia. E allora da questo punto di vista sul mio sito, che è www.uldericopesce.it, con il giudice Imposimato abbiamo dato vita a una petizione popolare in cui chiediamo la desecretazione di tutti i documenti, affinché a Radio 24, a Rai 3 e dovunque si possa leggere un quarto d'ora al giorno documenti importantissimi che ci fanno capire come siamo stati governati, ma non per fare processi sommari, per capire la strada che poi dobbiamo percorrere, conoscendo, certo, e avendo avuto fatto luce su una memoria così negativa. Oh, allora veniamo un attimo allo spettacolo vero e proprio. Tu che personaggio interpreti nella pièce? Allora, io sono Ciro Iozzino. Ciro Iozzino è il fratello di Raffaele Iozzino. Raffaele Iozzino è uno dei 5 membri della scorta, nato a Casola di Napoli, ed è l'unico che spara gli unici 2 colpi dello Stato. Pensate che Ciro Iozzino, no, dice che mio fratello Raffaele aveva il sogno di fare la scorta all'onorevole Moro, ma non per povertà. Mio fratello era partito dal sud dell'Italia perché ci credeva nello Stato, credeva nelle persone giuste e voleva diventare un agente al servizio di scorta dell'onorevole Moro, e ci riuscì. E poi diceva sempre mio fratello Raffaele, tornando a casa, che Moro era proprio una brava persona, era serio, onesto, e diceva che Domenico Ricci, l'autista della Fiat 130 blu dove Moro viaggiava, gli diceva un segreto, che noi non dovevamo dire niente a nessuno. Io avevo 15 anni all'epoca, e mi diceva mio fratello Raffaele che questo segreto era questo, che la macchina dove viaggiava Moro, la Fiat 130 blu, non era blindata, e neppure la macchina dove viaggiava mio fratello, l'Alfetta Bianca di scorta, che lui, Moro, aveva fatto tante volte richiesta di farsi blindare la macchina, l'avevano blindata Zaccagnini, Berlinguer, Craxi, Andreotti, Cossiga, ma Moro niente. E lui diceva sempre che Domenico Ricci diceva che se la viene a far blindare queste macchine, e mia mamma dice: ma che razza di scorta è questa? Ma come, no, non tenete le macchine blindate? E addirittura mio fratello Raffaele diceva a mia mamma che i fucili mitragliatori glieli facevano poggiare dentro i bagagliai delle macchine, non se li potevano portare neppure nella macchina. E mia mamma dice: ma che razza di scorta, la macchina non è blindata, e i fucili mettete in dei bagagliai, ma è più sicuro trattare un nostro in campagna? E così abbiamo regalato ai nostri ascoltatori una parte della pièce. È una caratteristica dello spettacolo è che viene seguito moltissimo dai giovani, ma anche dai giovanissimi che non hanno memoria, anche perché sono nati dopo, perché ricordo il rapimento e l'uccisione del presidente Moro avvenne nel marzo, il rapimento nel marzo del 78 e l'uccisione il 9 maggio. A cosa si deve questo interesse dei giovani? Ma io sono sicuro che i giovani oggi, una parte consistente dei giovani, vedono che l'Italia è incasinata. C'è un'Italia senza meriti, un'Italia dove trionfa la corruzione, dove trionfa... cioè, dei ragazzi che si fermano a parlare con me dopo lo spettacolo, proprio stamattina un istituto tecnico, dice: Ulderico, ma noi siamo preoccupati perché se non abbiamo uno che ci porta avanti dopo il diploma, dopo la laurea, che facciamo? E allora... io credo che loro vogliano le chiavi di questa nostra Repubblica, vogliano aprire questa porta, entrare dentro e trovare la luce, perché soltanto se si sa quello che è avvenuto, se non sappiamo chi è stato dietro la strage di Milano, di Portella della Ginestra, di Bologna, di Gioia Tauro, di Reggio Calabria, di Moro, chi ha ammazzato Borsellino, i grandi giudici, insomma, se non conosciamo la verità, ma dove vogliamo andare? E su questa storia di Moro sentono l'esigenza di conoscere la verità. Poi io dico addirittura nello spettacolo, non cito solo Piace Zenic, ma parlo anche di Camillo Guglielmi. Cioè, quando i giovani di Roma sentono che sul luogo dove Moro è stato rapito e dove i 5 ragazzi sono stati uccisi c'era un uomo dei servizi segreti, Camillo Guglielmi, che non ha mai spiegato che cosa facesse lì sul luogo dove Moro è stato rapito, ha interrogato dal giudice Imposimato se andava a pranzo, e il giudice gli dice: ma come, alle 9? Sì, mangiamo un po' prima. E dove andava a pranzo? A casa di un generale che si chiama Armando D'Ambrosio. E allora il giudice interroga D'Ambrosio e dice: giudice, ma lei aspettava Camillo Guglielmi? Dice: no, io non aspettavo nessuno. Allora i giovani si chiedono perché l'Italia ha fatto a meno di interrogare Camillo Guglielmo e di dirgli che cosa facevi là. C'è un altro agente dei servizi segreti che ha rivelato al giudice, ha detto Camillo Guglielmo ebbe una telefonata da Pietro Musumeci, il capo assoluto dei servizi segreti, che diceva: stanno per rapire Moro in via Fani, precipitati là. E un'ultima domanda, Ulderico, il teatro come può contribuire, e tu lo stai dimostrando, ma più in generale, il teatro e le forme alte di espressione della cultura, come possono contribuire a ripristinare la verità su questo caso e su tanti altri casi? Io credo che il teatro è strutturato sull'emozione, no? L'arte è strutturata prevalentemente sull'emozione, quindi la musica, la pittura, se non c'è l'emozione non ti comunica nulla. E allora avere il binario dell'emozione per indagare su fatti così importanti forse può avere più seguito rispetto, per esempio, proprio alla magistrato, a un racconto da magistrato dove ti dice le ricerche, le cose come sono andate. Quindi attraverso le emozioni credo che potremmo riuscire a creare persone nuove per un'Italia diversa e un'Italia più pulita. Bene, allora ringraziamo molto Ulderico Pesce e ovviamente raccomandiamo a tutti voi di seguire questo spettacolo importante sul caso Moro, i 55 giorni che cambiarono l'Italia. Buonasera e grazie ancora. Grazie a te, Dino.